Russia, il grande gioco di Putin, Trump, impeachment, atto secondo, Libia, aspettando Berlino. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Russian Prime Minister Dmitry Medvedev says that his government has resigned. So tragic for our country that the actions taken by the president Donald Trump. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. 16:08, 30 secondi in questo esatto istante inizia una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Anche quest'oggi grandi temi dell'attualità internazionale sotto i riflettori di me e della mia squadra. Antonio Tali, Lara Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Frisani, che anche quest'oggi è in console. 349-238-6666 per porre domande o commentare i tre grandi temi che tratteremo in questa puntata. Lo potete fare anche via Facebook, la pagina è Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24 e infine Twitter Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. Tre grandi temi, dicevo. Da un lato si attende ormai la conferenza di Berlino che dovrebbe in qualche modo indirizzare la grande crisi libica. Dall'altro lato la notizia che è arrivata ieri, per molti inaspettata, per altri attesa, ma non così velocemente, mettiamola così, che sono state le dimissioni del governo russo e gli scenari che la mossa di Vladimir Putin evidentemente apre sulla Federazione Russa. E poi Trump, impeachment, va avanti la procedura e quest'oggi alle ore 18 vi sarà l'investitura ufficiale di quello che sarà sostanzialmente il presidente della giuria. Di tutto questo parleremo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, ma non prima di aver misurato la temperatura. Il nostro termometro internazionale ci porta innanzitutto in Siria, perché notizia di poche ore fa di un dell'ennesimo, dobbiamo dire, bombardamento aereo su Idlib, città siriana, ancora una delle poche sacche di resistenza al regime di Damasco. 21 sarebbero i morti nel raid appunto avvenuto poche ore fa, ne danno notizia le agenzie, ma anche Al Jazeera online trovate un lungo approfondimento su quest'ultima battaglia per Idlib. Le forze schierate sono quelle di Damasco evidentemente, ma anche con il supporto russo. Contestualmente, nelle stesse ore è uscito un allarmante rapporto delle Nazioni Unite che enumera in 350.000 sfollati nelle ultime 6 settimane i civili appunto che sono scappati da Idlib. Questo dà la dimensione della crisi anche a livello umanitario che quell'ultima regione contesa della Siria sta creando. Per ciò che riguarda invece il capitolo Iran, registriamo una dichiarazione di Rouhani, il quale ha detto l'arricchimento quotidiano dell'uranio da parte iraniana è oggi superiore a quanto avveniva prima della firma dell'accordo nucleare del 2015. È utile ricordare ancora una volta quell'accordo del 2015 voluto dal presidente Obama, poi sconfessato da Donald Trump che ne è uscito, e l'Iran per almeno un anno ha atteso prima di riprendere i programmi e violare a sua volta anche quell'accordo. Questa dichiarazione di Rouhani avviene e arriva il giorno dopo quella dichiarazione congiunta di 3 paesi europei, Francia, Germania e Regno Unito, che invitavano l'Iran a rispettare gli accordi, ripeto, quegli accordi che gli Stati Uniti in primis non avevano rispettato. Questo è il nostro breve termometro internazionale, perché voglio prendermi qualche minuto per parlare di cosa? Beh, ancora una volta per parlare di Libia. Intanto Pierpaolo al 349-238-6666 diciamo che riassume in maniera estremamente plastica quella che è stata l'efficacia della diplomazia, Pierpaolo l'ascoltatore sostiene, tedesca. Sicuramente vi sono stati anche altri attori che si sono mossi sul dossier libico. Comunque Pierpaolo scrive al 349-238-6666. I tedeschi si sono mossi una volta sola e hanno fatto firmare la tregua Haftar con la promessa della sua presenza a Berlino. Prima di oggi non avevo sentito una sola dichiarazione di nota da parte dei tedeschi. Forse questa è diplomazia seria, così appunto Pierpaolo. In effetti cos'è accaduto? Che nelle ore scorse il ministro degli esteri Maas, ministro degli esteri tedesco, è volato a Bengasi, ha parlato con Haftar e vi è stata una dichiarazione proprio del responsabile degli affari esteri tedesco pochi minuti fa, volando via da Bengasi, ha detto che Haftar è pronto a un reale cessate il fuoco nonostante non abbia firmato il trattato di pace proposto, l'accordo proposto a Mosca. Nel frattempo si fa un po' più chiara quella che sarà la presenza alla conferenza di Berlino dei vari attori internazionali, mentre la Tunisia, che è uno dei grandi assenti pur data la sua vicinanza, confina direttamente a ovest col territorio libico, pesta i pugni sul tavolo e per bocca di uno dei suoi politici più rappresentativi dice: siamo irritati dal fatto che non siamo nemmeno stati invitati a Berlino. Per darvi un'idea, l'Algeria, per esempio, che anch'essa condivide un lungo tratto di confine con la Libia, sarà sì presente. Comunque, dicevo, pesi massimi: Serraj ha confermato ufficialmente che ci sarà, quindi Tripoli, governo riconosciuto dall'ONU, ci sarà, e Haftar stesso ha confermato la sua presenza. A questo punto, nonostante tante visioni non particolarmente ottimistiche sull'esito di questo incontro a Berlino, forse iniziano a emergere delle note un po' più positive. Forse davvero quello che potrebbe scaturire da Berlino è quantomeno un cessate il fuoco duraturo. Sullo sfondo rimane la possibile presenza di una forza di interposizione sotto egida ONU, molto probabilmente più che europea, ipotesi più volte nelle ultime ore e giorni rilanciata anche da parte italiana. Vi sottopongo però un'altra osservazione interessante: mentre tutto questo accade e mentre domani, perché vi avevo promesso per oggi un piccolo spaccato di vita quotidiana a Tripoli e Bengasi, sentiremo le due diverse Libie, lo rimandiamo a domani perché la notizia di ieri di Putin e del terremoto politico ha in qualche modo acceso la nostra attenzione, quindi preferiremo dedicare quest'oggi un po' di spazio appunto alla Russia. Dicevo, sul terreno interessante che cosa? L'annuncio fatto da Erdogan. Il presidente turco ha sostanzialmente detto che quest'anno, quindi nel 2020, inizieranno le attività di esplorazione e perforazione nelle zone del Mediterraneo inquadrate in quell'accordo contestatissimo che ricorderete vi abbiamo raccontato proprio con la Libia stessa. Insomma, in sostanza si ha l'impressione che Erdogan si stia muovendo in maniera molto spregiudicata, quantomeno sul tratto di mare contestato, e contestualmente ancora una volta ha promesso l'invio di soldati, di un maggiore numero di soldati, non soltanto i miliziani siriani. Vi abbiamo dato conto ieri della inchiesta dell'esclusiva del Guardian, almeno 2000 sarebbero soldati siriani, forse dobbiamo dire mercenari a questo punto, siriani inviati o in corso di invio a Tripoli, mentre soldati turchi con la mimetica, con lo stemma, la bandiera turca, al momento sarebbero solo 35. Erdogan ha promesso di inviarne altri per garantire la sovranità territoriale della Libia e garantire un sostegno al fragile per ora governo di Tripoli. Allora, 349-238-6666. C'è un messaggio che è arrivato, direi, al vetriolo. Putin ha trovato un altro burattinaio, un burocrate senza iniziativa, facilmente manovrabile. Diciamo che sintetizza quello che da alcuni analisti è sussurrato in maniera piuttosto icastica il nostro ascoltatore. C'è qualcun altro che deride ancora una volta il ruolo italiano a Berlino. Qualcuno dice, qualche ascoltatore, al massimo porterà il parmigiano per fare l'aperitivo. E poi regime di Damasco, mi incalza un ascoltatore: smettetela di mistificare i fatti, ditelo che è tutto nato da quei, e poi c'è un aggettivo che non amo ripetere, destabilizzatori del mondo, cioè gli americani e la CIA, e penso che faccia riferimento all'ingerenza statunitense nel conflitto siriano. Detto ciò, Roberta Fisani, dammi una mano perché è il momento di andare a Mosca. Considerate le innovazioni proposte relative al sistema politico, ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, considero necessario indire un referendum sul pacchetto di emendamenti alla Costituzione che è stato proposto. Questo è l'annuncio di ieri di Vladimir Putin, che ha scatenato un vero e proprio terremoto politico, perché promette di ridisegnare l'assetto politico stesso della Federazione Russa. Lo dicevo all'inizio di questa trasmissione, se ne parlava da tempo, si sussurrava nei corridoi, nel cosiddetto circolo più ristretto dei collaboratori, quello di potere solido di Putin. Qualcosa era emerso appunto nei mesi scorsi, nessuno si aspettava un'accelerazione così subitanea a 4 anni di distanza, il 2024, quando Vladimir Putin non sarà più in carica come presidente e non potrà più ripresentarsi. Entreremo meglio nello specifico anche della tempistica. Cosa è accaduto ieri? Vladimir Putin propone una serie di emendamenti e di riforme dello Stato Costituzionale della Federazione, che vuole sottoporre a referendum popolare. Sostanzialmente, vado per punti, ma molto, cercando di semplificare al massimo, si vuole ridurre i poteri del presidente a partire dal 2024 stesso, cioè dopo che Putin dovrà lasciare il suo incarico. Si dà al Parlamento il potere di confermare il primo ministro, cosa che invece adesso fa lo stesso presidente, cioè Vladimir Putin. Inoltre si vuole rafforzare quello che è un altro organo, che è il Consiglio di Stato, che è un organo consultivo, che dovrebbe diventare, entrando nella Costituzione, uno degli organi principali e fondanti della nuova Costituzione della Federazione Russa. Le notizie ci hanno restituito poche ore fa anche della conferma della nomina del nuovo primo ministro che va a sostituire Medvedev, è Mikhail Mishustin, sconosciuto ai più anche all'interno della Russia, un tecnocrate, uno che si occupava di tasse, un funzionario molto ligio ma anche molto capace, così viene descritto dai pochi che ci hanno avuto a che fare, che l'hanno conosciuto. La Duma ha approvato appunto il nuovo premier, il voto quasi plebiscitario, 383 voti a favore, 41 astenuti, sapete quanti contrari? Zero. Insomma, pare che cambi tutto, ma per fare che cosa? Beh, forse sostanzialmente per non cambiare nulla. Abbiamo raggiunto Kirill Martinov, che è il capo della sezione politica di Novaya Gazeta, lo ricorderete, il giornale che adesso esce bisettimanalmente, che è un vero e proprio baluardo dell'opposizione russa a Napolitoskaya, per fare un nome, una delle firme più prestigiose che ahimè ha trovato la morte facendo il suo lavoro. Insomma, abbiamo raggiunto Martinov per capire innanzitutto, è la solita domanda che si fa il cronista di razza, che aria si respira a Mosca dopo la mossa di Vladimir Putin. Sentite. Credo che questa sia una situazione nuova per noi, per tutti noi, intendo. Per decenni, mentre era al comando, Putin si è presentato come un difensore della Costituzione del 1993, creata dal presidente Yeltsin in quell'anno. Finora, in tutti gli anni in cui Putin è stato al potere, lui e il suo entourage si sono sempre dichiarati a favore del mantenimento di questa Costituzione. Adesso, per nessuna ragione apparente, Putin e i putiniani stanno avviando una nuova stagione politica, caratterizzata da cambiamenti radicali. Quella Costituzione era la nostra legge fondamentale. E anche se non è una legge ideale per una nazione come la Russia, noi di Novaya Gazeta e molti altri abbiamo sempre chiesto al governo di mantenerla e di proteggerla, perché almeno sulla carta garantiva i diritti umani fondamentali. Adesso hanno deciso di distruggere questa Costituzione e stanno trattando la questione come se fosse ordinaria amministrazione. In realtà gli basteranno pochi mesi per riuscirci. Non sappiamo ancora che tipo di appello dobbiamo fare per proteggere questa legge. La voce di Kirill Martinov, a nessun luogo lontano, capo della redazione politica di Novaya Gazeta, che ci ha restituito quella che è una fotografia di Mosca, una Mosca, diciamo, quantomeno la classe giornalistica intellettuale che più si interessa alla politica, tratteggiata con sconcerto. La seconda domanda è molto precisa. Questo ridisegno della Costituzione, del bilanciamento dei poteri, non è che va a mettere in crisi proprio l'equilibrio dei poteri stessi? Sentite ancora il giornalista. Secondo me sì, e non mette in pericolo solo quelli. Ci sono anche norme politiche che, per quanto ormai non vengano più applicate da anni, sono ancora in vigore e che rischiano di scomparire. Kirill Martinov, capo sezione politica di Novaya Gazeta. In questa prima pagina di Nessun luogo lontano vi stiamo raccontando quello che dal punto di vista della politica internazionale è stata una notizia bomba. non del tutto in attesa, perché vi erano segnali di un desiderio da parte di Vladimir Putin di ridisegnare in qualche modo la Costituzione, il bilanciamento dei poteri. Sullo sfondo il suo ultimo mandato, quello attuale, lui dopo il 2024 non potrà più ripresentarsi, almeno come presidente. Ricordate quell'alternanza con Medvedev stesso, primo ministro, presidente, si alternarono appunto per aggirare il divieto di 2 mandati consecutivi, che è tuttora in vigore, e di 4 mandati presidenziali in totale per ciò che riguarda l'ordinamento russo. 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande. Ricordo però agli ascoltatori che i messaggi audio non li leggiamo e non riesco ovviamente a farveli sentire, mentre se avete voglia di scrivere sono qua a leggervi, così come leggo i commenti su Facebook, nel suo logo lontano trattino Radio 24, Twitter, nel suo logo 24, ovvero Giampaz. Un ascoltatore sottolinea una cosa interessante: anche Putin era pressoché sconosciuto quando prese il potere. Mi chiedo però se ci sarà un cambiamento sul comportamento della Russia con l'annessione della Crimea e nei rapporti con l'Ucraina e i ribelli in Georgia. Questo è molto interessante e fa riferimento l'ascoltatore al nuovo premier, che è assolutamente sconosciuto. C'è da dire che è un background un po' diverso, l'ex il passato da agente del KGB, da dirigente del KGB di Putin si è fatto vedere, si è palesato, no? In tanti suoi comportamenti, anche in una, se volete, ferrea disciplina politica nel raggiungimento degli obiettivi. La mia impressione è, leggendo le analisi più autorevoli su tutti i grandi media internazionali, che la mossa di Putin, ma non voglio anticipare il grande disegno, sarà quella di attrezzare la Costituzione e la Federazione Russa per rimanere in carica anche dopo il 2024. Quindi io dubito fortemente che la politica internazionale potrà subire, quindi la politica estera russa potrà subire dei cambiamenti enormi. Detto ciò, vi faccio sentire un altro punto di vista, un'altra voce. Lo sapete, cerchiamo di alternare proprio anche le angolazioni, qui a nessun luogo è lontano. È un analista, dirige il Russia Institute al King's College di Londra, prestigiosa università. Lui si chiama Sam Green, al quale abbiamo chiesto se si aspettasse questa notizia. Era qualcosa di davvero imprevedibile oppure Vladimir Putin lo stava pianificando da tempo? Sentite Sam Green. In un certo senso sono vere entrambe. Si sapeva che c'erano delle discussioni in corso in merito a possibili riforme costituzionali. Sapevamo che c'erano discussioni sia all'interno sia attorno alla cerchia di Putin su quale avrebbe potuto essere il suo ruolo in futuro e quali avrebbero dovuto essere i cambiamenti nelle strutture politiche per garantirgli di restare al potere. Dal momento che nel 2024 scadrà il suo mandato costituzionale. In una certa misura, quelle discussioni hanno preso ritmo e velocità. Non si sapeva esattamente quello che stava per essere proposto. Non si sapeva che sarebbe stato proposto ieri e che la situazione sarebbe cambiata così velocemente. Sono un po' sorpreso dall'attenzione così forte sulla riforma costituzionale e sulla natura potenzialmente radicale della riforma. Una vera e propria rivoluzione politica e costituzionale, quella che Vladimir Putin si appresta a varare. Certo c'è il referendum popolare che lui stesso ha prospettato, ma come dire, si hanno pochi dubbi sugli esiti di questo referendum. Sam Green, che dirige il Russian Institute al King's College di Londra, risponde con quest'ultima sua frase quando dice: sono un po' sorpreso dall'attenzione così forte sulla riforma costituzionale e sulla natura potenzialmente radicale della riforma. Dicevo, Sam Green risponde così a un ascoltatore, Claudio da Torino, che dice: ma come i giornalisti russi non sanno ancora nulla di preciso sui cambiamenti costituzionali, come mai protestano subito? In effetti si sanno le cose precise, le ho elencate, almeno quelle principali, e la paura condivisa sia dall'analista inglese che dal giornalista russo è proprio uno sbilanciamento dei poteri a favore di quello che sarà il nuovo premier, che a questo punto dal 2024, attenzione, potrebbe essere di nuovo Vladimir Putin. Vediamo, sono tutti scenari. Di certo c'è che è un cambiamento, una cesura, un volta pagina dal punto di vista storico-politico importante, ed è per questo che ne parliamo in questa prima pagina di Nessun Luogo è Lontano. 349-238-6666. Sconosciuto Putin, il capo del KGB sconosciuto, è il politico europeo più forte e capace di tutti, rispondendo così all'ascoltatore precedente. Ma in effetti, una volta salito al potere, certamente aveva una notorietà molto diversa da quella che si è guadagnato in sostanzialmente 4 mandati. Un altro ascoltatore si sofferma su quello che è un lessico che noi ogni tanto utilizziamo, attingendo a quelle formidabili copertine che ci regala l'Economist, no? Ricordate il sultano Erdogan, lo zar Putin, e l'ascoltatore dice: si parla di impero cinese, impero ottomano, pangermanismo, nuovo zar, ma siamo tornati alla metà del millennio scorso. Non c'è dubbio, e credo che sia Manfredo da Firenze, vedo gli altri messaggi che ci scrive, non c'è dubbio che stiamo assistendo a dei cambiamenti dal punto di vista geopolitico enormi, con la nascita e a volte rinascita di attori che stanno riguadagnando presenza, potenza e importanza sullo scacchiere internazionale, per cui ogni tanto anche il lessico giornalistico che cerca di raccontare nel modo più sexy tra virgolette possibile, più gradevole, magari si affidano a un lessico facendo modernariato storico, andando ad attingere appunto un lessico di qualche secolo fa. Allora, io direi di fare un piccolo passo indietro prima di proseguire nell'analisi di quello che è accaduto ieri a Mosca. Facciamo una fotografia del sistema attuale dei poteri in Russia, così possiamo fare un paragone molto più agevole. Dopo il disfacimento dell'Unione Sovietica nel 1989 e l'approvazione della Costituzione nel 1993, la Russia è diventata una repubblica federale semipresidenziale. Oggi vige il principio della separazione dei poteri tra legislativo, esecutivo e giudiziario. Il presidente della Federazione Russa, capo dello Stato, nomina in accordo con la Duma il primo ministro. È garante della Costituzione, è comandante supremo delle forze armate e definisce gli indirizzi fondamentali della politica estera e interna dello Stato. Il primo ministro è il capo del governo che esercita il potere esecutivo, mentre all'Assemblea federale, cioè il Parlamento, spetta il potere legislativo. L'Assemblea è formata da due camere: Consiglio della Federazione, la cosiddetta Camera Alta, l'equivalente del Senato, formata da 170 seggi, e la Duma, ovvero la Camera dei Comuni o anche detta Camera Bassa, composta da 45 seggi. I membri della Duma sono eletti per un periodo di 4 anni. L'attuale sistema elettorale è misto, proporzionale e maggioritario. 225 deputati sono eletti nell'ambito delle liste presentate dai partiti, mentre 225 deputati sono eletti nei collegi uninominali con soglia di sbarramento al 5%. I partiti acquisiscono il diritto di partecipare alle elezioni se sono presenti in una sede certificata dal Ministero della Giustizia in almeno 43 regioni della Russia. Il partito presidenziale Russia Unita, al cui vertice c'è Dmitry Medvedev e precedentemente guidato dal presidente Vladimir Putin, rappresenta il partito principale. Questo è l'attuale sistema politico vigente in Russia, quello che Vladimir Putin ieri, con una dichiarazione bomba, ma soprattutto, come dire, inaspettata nei tempi, a 4 anni dalla scadenza del suo mandato, ha proposto di andare a cambiare e sottoporla a referendum. Attenzione, e così rispondo a un'ascoltatrice, se non erro, che dice ironicamente: certo, soltanto i vostri referendum europei sono veri, gli altri sono tutti falsi. Non volevo assolutamente alludere al fatto che vi fossero brogli o che il referendum eventualmente che Putin porrà sugli emendamenti costituzionali siano falsi. Davo per scontato il risultato, cioè l'appoggio della maggioranza dei russi a questi cambiamenti della Costituzione. Se si vanno a guardare i sondaggi, lo stesso Putin gode di un supporto popolare, di un gradimento, così si dice, del 65%. Mentre l'ex premier, ormai dobbiamo dire, Dmitry Medvedev era al 38%. Questo spiegherebbe peraltro anche quest'ultimo rimpasto, una delle tante ragioni. Tra pochissimo, dopo l'informazione finanziaria, rientriamo in punta di piedi nella redazione della Novaya Gazeta, perché vi voglio far ascoltare ancora una volta un po' di punti di vista proprio da lì, dalla Russia. Tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Ultima ora, il gatto tigro al Giro d'Italia. Ma no, basta fake news! Monge non racconta storie. Le nostre crocchette sono 100% made in Italy, con carne fresca per un'appetibilità straordinaria. Monge, il pet food che parla chiaro. Vuoi aprire un'attività innovativa e di successo? Bene, sto cercando proprio te. Sono Super Zibaldo. Insieme possiamo fare grandi cose. Grazie a me potrai proporre a privati ed aziende tanti servizi, dall'apertura di conti ai finanziamenti, dai pagamenti alle ricariche, dai servizi postali a quelli digitali e tanto altro. Tutto in un unico negozio. Ti offrirò la formazione e ti affiancherò per le abilitazioni richieste. Registrati su zibaldo.it e riceverai un'offerta promo esclusiva per te. Scegli il franchising Zibaldo. Per te, oltre la banca. Dal 17 al 22 gennaio, appuntamento con Vicenza Oro, vetrina delle eccellenze italiane e internazionali del comparto orafo e gioielliero, organizzata da Italian Exhibition Group, e con VO Vintage, in mostra per la prima volta il vintage di altissima gamma di orologi e gioielli, con la possibilità per collezionisti e appassionati di vendere o acquistare pezzi unici e rari. Radio 24 sarà presente a Vicenza Oro con dirette e appuntamenti speciali. Tutte le info su radio24.it. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano. Nella prima lunga pagina stiamo parlando del terremoto politico che è avvenuto a Mosca. Grande attore e mattatore Vladimir Putin, così mi correggo, che un'ascoltatrice mi bacchettava, e giustamente sulla pronuncia deve aver pazienza, non è facile ogni tanto districarsi, passare da un nome arabo a uno turco per finire con quello russo, però ha perfettamente ragione, per cui chiedo venia e cerco di correggermi immediatamente. Un altro ascoltatore invece al 349-238-6666 dice: non capisco la tempistica delle mosse di Putin fatta adesso nel 2020. Averlo fatto nel 2021-22 era troppo rischioso? Secondo Putin questo è il momento storico, il mondo è talmente incasinato, dice l'ascoltatore, fra Nord Africa, Medio Oriente, eccetera, eccetera, che questa mossa passerà inosservata e presto dimenticata. Ho letto un po' di analisi in queste ore. In realtà la tesi prevalente è che lui l'abbia fatto con largo anticipo, proprio per evitare, come dire, una mossa e reazione eventuale dell'opposizione o dei cittadini russi proprio a ridosso del suo potenziale nuovo investimento in una nuova figura, che non sarà evidentemente quella di presidente. In qualche modo anticipare il terremoto per poi farlo scaricare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vi faccio tornare tra le stanze della redazione della Novaya Gazeta con Kirill Martinov, capo della sezione politica, a proposito di reazioni da parte della società civile russa. Ce n'è stata qualcuna? Sentite. Beh, di fatto al momento la gente non sta capendo quello che sta succedendo. Nella loro vita quotidiana, per ora, non ci sono grossi cambiamenti e sembra che questi sommovimenti politici non abbiano ripercussioni sull'esistenza di ogni giorno. Ma nel giro di settimane o di mesi, quando molta gente inizierà a capire quello che è avvenuto, mi pare molto probabile che inizieranno nuove proteste e nuove mobilitazioni civili di diverso tipo. La Russia ormai ha una lunga storia di protezione della Costituzione e c'è persino uno slogan molto significativo qui da noi, che suona più o meno come: per favore mantenete la vostra Costituzione, proteggete le vostre leggi. Significa che questa Costituzione e queste leggi sono state approvate dalle autorità attuali e che quindi tocca a loro proteggerle. La Costituzione della Federazione Russa come patrimonio comune, condiviso anche con tutti i suoi cittadini. E questo è probabilmente il senso anche della scelta di Vladimir Putin di sottoporre questi cambiamenti a referendum popolare, proprio per consacrare questo aspetto. Detto ciò, vi faccio anche sentire sempre la voce di Kirill Martinov su come dire, i collegamenti potenziali di questa mossa, a cui lo deve peraltro anche un ascoltatore, e la situazione politica internazionale. Sentite cosa ne pensa il collega della Novaya Gazeta. Secondo me la ragione principale è il cosiddetto problema del 2024, ossia il problema di come il presidente Putin potrà riuscire a mantenere il suo potere personale dopo essersi sempre dichiarato un difensore della Costituzione, una Costituzione che oltre il 2024 non avrebbe potuto consentirgli altri mandati. Questo è un tema che in Russia si dibatte da anni e sul quale si ipotizzavano diversi scenari. Adesso sembra che Putin ne abbia scelto uno e pare che la maniera per concentrare il potere nelle mani di un solo uomo sia l'unico problema che Putin e i suoi sono interessati a risolvere. Questa è la ragione principale per la quale hanno deciso di cambiare la Costituzione. Forse potrebbero esserci anche ragioni secondarie, legate all'economia o alla situazione internazionale, ma questa rimane la ragione personale e tutto gira intorno al potere personale del signor Putin. E adesso viaggiamo fino a Londra e torniamo a sentire la voce di Sam Green, dirige il Russia Institute al King's College di Londra, prestigiosa università britannica, al quale abbiamo chiesto quello che potrebbe essere almeno accennato ritratto del nuovo premier. Sentite. Certamente non è un nome noto al grande pubblico, è una persona nota all'interno dei circoli governativi e probabilmente nel settore finanziario. Viene dal servizio fiscale e ha la reputazione di essere sia un tecnico sia un esecutore. Credo che questo la dica lunga sull'enfasi che il Cremlino in questo momento sta mettendo sulla gestione delle relazioni con le élite in primo luogo. Se si è preoccupati del fatto che in Russia persone potenti possano avere idee diverse su dove debba andare la politica, allora c'è bisogno di una leva e il sistema delle tasse può essere uno strumento perfetto per esercitare quella leva. La voce e l'analisi di Sam Green, Russia Institute, King's College di Londra. 349-238-6666, un po' di messaggi. Alcuni anche piuttosto accesi. State dando il via delle proteste sciocche nei confronti di Putin. Volete che tra qualche anno, scoppino le primavere russe e Putin faccia la fine di Gheddafi? Ma, francamente, gentile ascoltatore, stiamo raccontando quello che è una rivoluzione politica enorme. Abbiamo dato voce a un analista inglese che ben conosce le vicende russe, fra l'altro è russofono, Sam Green. Se andate sul suo account Twitter, twitta tranquillamente in cirillico e studia la Russia da anni. E poi abbiamo sentito un giornale che abbiamo dichiaratamente definito di opposizione, la Novaya Gazeta, credo che non abbia bisogno di grandi presentazioni, ma non è che raccontare questi fatti, a parte dubito, insomma, spero di avere tanti ascoltatori, ma non credo di avere tanti ascoltatori in terra russa, ecco, e quindi non credo che questa trasmissione darà il via a una primavera russa facendo fare la fine di Putin, di Gheddafi a Putin. Sarebbe un potere nei confronti della radio alla faccia, insomma. Allora, ci sono altri messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore: Putin prepara per tempo la sua successione e sa come si governa un paese, su questo non c'è dubbio, sulla grande pianificazione e lungimiranza su questo non ci piove, così come sulla sua abilità nel tessere rapporti internazionali nell'ultimo periodo e nell'imporsi come attore, soprattutto militare, perché economicamente non ha tantissima forza, su vari scacchieri, tra cui quello medio orientale. C'è un altro piccolo nodo che volevo sciogliere, lo facciamo prima delle strade italiane, sempre con Sam Green. In molti hanno cercato di scrutare la faccia dell'ormai ex premier Medvedev per capire se fosse in qualche modo arrabbiato, se ce l'avesse con Putin per questa autosospensione così subitanea. Sentite cosa ne pensa l'analista politico inglese. In un certo senso, Medvedev è stato il parafulmine della politica russa. Ha sempre occupato posizioni che gli hanno richiesto di servire gli interessi di altre persone, piuttosto che i suoi. E non ha mai mostrato un particolare senso di ambizione politica. Ha sempre saputo che il suo compito è quello di compiacere il presidente. E adesso il presidente vuole vederlo in un ruolo diverso, e forse in nessun ruolo. Staremo a vedere che ruolo sarà. Quindi, no, non penso che Medvedev sia stato poi molto sorpreso da questa notizia e non credo nemmeno sia stato particolarmente amareggiato. È stato al potere a lungo. Molti avevano ipotizzato le sue dimissioni, ma lui è rimasto al potere nonostante tutto. Penso che la sua sensazione sia quella di aver fatto il suo lavoro e ora ci si aspetta da lui qualcosa di diverso. Con la voce di Sam Green chiudiamo questa lunga pagina dedicata alla Russia. Adesso andiamo sulle strade italiane e poi vi porto a New York. Nessun luogo è lontano. Today we will make history, delivering articles of impeachment against the President of the United States for abuse of power and obstruction of the House. Così Nancy Pelosi celebra, suggella quella che per i democratici è una grande giornata, una grande pagina politica. Oggi cosa succede? L'atto secondo, se volete, della procedura di impeachment per Donald Trump. Alle 18 ora italiana Mitch McConnell, il senatore leader dei repubblicani, leggerà formalmente alla Camera i capi di imputazione, mentre John Roberts diventerà sostanzialmente il capo della Corte Suprema, che dovrà presiedere al giudizio stesso proprio sull'impeachment. Per capire lo stato dell'arte di questo processo, che ribadiamo ancora una volta è totalmente politico, è puramente politico, ci aiuta Riccardo Barla, un corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Riccardo, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Già ieri è stata una giornata storica in qualche modo, perché i democratici, diciamo, la prima fase è finita alla Camera. Ricordo la storia, perché la storia è quella dell'Ucraina, sì, Gate, di queste telefonate che Trump ha fatto il mese di luglio, che poi sono state diffuse perché alla Casa Bianca tutto quello che succede viene registrato, in cui lui chiedeva a un capo di Stato di un altro paese, di un paese sovrano, di indagare contro un suo avversario politico, sì, nel caso era John Biden, per il figlio che ha un contratto, siede nel board di una società ucraina, e la Camera, insomma, l'ha accusato di due cose: di abuso di potere, di aver abusato dei suoi poteri per interessi personali, come è evidente sempre, e poi di ostruzionismo al Congresso. Ieri, sì, è successo che alla Camera, finita questa prima fase, hanno nominato quelli che chiamano impeachment manager, sono sette, sì, parlamentari, che saranno i procuratori, i Di Pietro, che dovranno portare avanti l'accusa al Senato. C'è stata una specie, sì, di processione, sì, per cui è un atto anche molto, molto, come dire, formale. Per cui i capi di commissione d'inchiesta, con questi sette deputati, sconosciuti molti, sì, che saranno gli accusatori, sono passati dalla Camera al Senato. La cosa interessante è che è successo questo fatto storico, è successo solo tre volte nella storia degli Stati Uniti, nello stesso giorno in cui il presidente Trump ha firmato questo accordo con la Cina. E questo accordo con la Cina, un altro effetto che ha avuto, è stato quello di oscurare, almeno in parte, ma sì, in gran parte, questo evento, sì, che è successo ieri, che sì, sta succedendo, come ha ricordato tu. Ma hai fatto bene a sottolinearlo, Riccardo Barla, lo ricordo, è la voce che sentite, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, pronto a questa lunga rincorsa, perché il 2020 è l'anno, novembre, si vota, insomma, si ormai in campagna elettorale, Donald Trump sta scaldando i muscoli, lo sta facendo molto bene, perché la pace scoppiata con la Cina è stata una mossa geniale, proprio nelle ore in cui appunto si concludeva una prima fase liturgica di questo processo di impeachment. Riccardo Barla, non ti puoi esimere da rispondere a una domanda che ho fatto ormai credo decine di volte a tutti i miei ospiti, perché chi sta vincendo da questo impeachment? Chi è che sta traendo vantaggio? Ti anticipo, ma non voglio condizionare il tuo giudizio, attenzione, che la maggior parte degli ospiti, sia analisti che giornalisti, commentatori, dicono alla fine sta diventando un boomerang gigantesco per i democratici. Dopo la sfilata a cui hai assistito ieri, hai cambiato idea? Sei di questa opinione? Dimmi un po'. Ma non so, è difficile dirlo, perché allora di fatto la cosa non arriverà a niente, perché ci vuole la maggioranza, l'avevamo detto mille volte, ci vuole la maggioranza dei due terzi dei senatori, sì. Sono 53 i repubblicani e 47 i democratici, quindi 20 senatori repubblicani dovrebbero sfilarsi dalle posizioni di Trump e il partito per votare l'accusa contro di lui, quindi la sì. cosa è abbastanza improbabile a livello pratico, però per il prossimo mese ci sarà questo processo al Senato in cui ci sarà appunto questi che accusano Trump e poi l'avvocato di Trump, Pat Cipollone, che ha un team di 40 avvocati, che è lo stesso che aveva messo insieme per il Russia Gate, sì. che farà la difesa, e quindi ci sarà questa cosa che a livello mediatico sarà molto molto molto forte negli Stati Uniti nei mesi in cui si cominciano a fare le primarie. Tra l'altro ieri leggevo che adesso c'è già un piccolo problema, perché per esempio i candidati democratici, che sono quasi tutti senatori, sì. Sanders, Warren e gli altri, dovranno andare al Senato, quindi non potranno fare adesso tutti i comizi che dovrebbero fare nell'Iowa. Il 3 febbraio ci sono le prime, certo. le prime primarie. E diventa anche complicato per questi che stanno girando gli Stati Uniti in lingua e largo certo. per incontrare i loro iscritti al partito, no? È certo. Quindi c'è tutta questa questione e diventerà un po' più mediatica, ecco. La cosa se posso dire, sì. per concludere un po' sì. la retorica di Trump, ovviamente in questi giorni e nei mesi a venire sarà la grande economia che va fortissimo, ed è vero. Io ho ucciso il più grande, il numero uno terrorista in Iran, è questo sì. che lui continua a dire una settimana, cosa che non avevano fatto l'odiato Obama e anche prima George W. Bush, che sì. hanno avuto il coraggio di toccare solo le mani, e poi in ultimo questo accordo terrific, lo sì. straordinario accordo con la Cina, che lui dice, la realtà è molto diversa, non è proprio così, al di là della retorica trumpiana, perché... lui è stato consigliato, lo ha ammesso anche lui, dopo due anni di guerra commerciale che ha in qualche modo ha fatto pagare un prezzo sia all'economia americana. Leggevo oggi che nell'Ohio, che è un paese agricolo ma anche manifatturiero, a dicembre hanno perso il lavoro 12.000 persone, sì. Quindi c'è stato un prezzo, c'è stato quindi un impatto, lui certo. stesso. Esatto, lui in qualche modo è stato consigliato a fare questa pace con i cinesi nell'anno delle elezioni, perché è semplicemente meglio per lui che si arrivi a un periodo senza tensioni, quindi questo accordo con la Cina è importante, per fino a novembre non sentiremo parlare più di dazi se sì, la Cina, certo, come già hanno certo. detto ieri, manterrà gli impegni di acquistare questi 200 miliardi di prodotti americani in più, e se ne riparlerà con la storia della Cina per chi verrà dopo Trump, o Trump stesso se verrà rieletto dopo il 3 novembre 2020, ecco, dopo le elezioni. Certo, in vista di quelle elezioni, evidentemente questa lunga corsa ci risentiremo ancora. Riccardo, intanto ti ringrazio, ti rilascio al tuo lavoro. Riccardo Ballan, corrispondente Sole 24 Ore da New York. Al volissimo, un paio di ascoltatori: ha iniziato la nuova campagna Trump, non mi ero accorto avesse interrotto quella precedente. E un altro ascoltatore: Trump fa dei, vabbè lo leggo, insomma, fa casini, io vi prego di ripulire i messaggi, un'ortodossia linguistica mi piacerebbe tenerla per poi prendersi il merito di risolverli, dice l'ascoltatore. Scommetto che rifarà anche l'accordo con l'Iran quest'anno, così azzarda Sam, e insomma vedremo, questo è davvero da sfregare sulla sfera di cristallo. Mancano esattamente 20 secondi, per cui questa volta senza l'ordine, e no, ci vuole sempre l'ordine. John Berko, eccolo, lanciamo i titoli di coda, con i quali ringrazio tutta la squadra di Nessun Luogo, voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento è per domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.